Anje usin jenje. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Uzuko nguThixo enyangweni. Manje usunje. Alleluia. Alleluia. Ngegazi lemva nawe usunje. Nanje. Ngegazi lemva nawe usunje. Nanje. Ngegazi lemva nawe uzuko nguThixo enyangweni. Nawe usunje. Alleluia. Alleluia. Gekazi lemva na Gekazi lemva na uzuko uThixo enyangweni. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Uzuko uThixo enyangweni. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Uzuko uThixo enyangweni. Nawe usunje. Alleluia. Alleluia. Ngegazi lemva nawe usunje. Ngegazi lemva nawe usunje. Ngegazi lemva nawe uzuko uThixo enyangweni. Nawe usunje. Ngegazi lemva nawe usunje. Ngegazi lemva nawe usunje. Ngegazi lemva nawe uzuko uThixo enyangweni. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Uzuko uThixo enyangweni. Nawe usunje. Alleluia. Alleluia. Ngegazi lemva nawe usunje. Alleluia. Ngegazi lemva nawe usunje. Alleluia. Ngegazi lemva nawe uzuko uThixo enyangweni. Amen. Alleluia. Amen.